Signor Pierluigi Pardo è pregato di tornare al più presto sulla terraferma. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Interested in me, I became very happy because since I was a little kid, I always had into some kind of favorite team in Italy. Io stasera insieme un altro, e tu sarai forse a ridere di me, della mia gelosia. Ibrahimovic, rete, l'Inter è in vantaggio, 2-1, ha segnato Zlatan Ibrahimovic. Gran tunnel di Crespo, palla in verticale, scattato Ibrahimovic in area di gol. Viene chiuso, la palla resta lì, Ibra, rete, un gol straordinario, un gol incredibile. Pazza idea di far l'amore con lui, pensando di stare ancora insieme a te. Folle, folle, folle idea, sentirti mio, se io chiudo gli occhi vedo te. Sono molto contento per tutto andato così bene, e grazie a Marco perché ha fatto un buon lavoro, anche a Lelen. Voglio ringraziare anche il presidente perché secondo me è un molto bravo, non solo un presidente, anche una persona. Allora, io non so se è una suggestione, se è una bufala, se è una pazza idea, che cos'è questa cosa che oggi il Corriere dello Sport ha lanciato in prima pagina: Ibra si inserisce l'Inter. Chissà se magari davvero Ibra torna all'Inter e lo sentiamo ripetere quelle parole lì che risalgono al 2006. Il nostro Giorgio De Luca le ha ritrovate nel grande archivio di tutti i convocati. Estate del 2006, l'estate di Ibrahimovic all'Inter, anche quella volta con uno scippo al Milan. Se ricordate, Milan che l'aveva in mano, Milan invischiato nelle questioni di Calciopoli, e poi in una notte Oriali che portò via Ibrahimovic al Milan. 800 24 00 24. Ci credete, non ci credete, vi piace, non vi piace, noi siamo qui fino alle 15.30, 800 24 00 24, potete scriverci anche al 349 238 6666, Pierluigi Pardo, ciao, che ne dici? Veramente amanti, quindi no, sono ogni venerdì, sembra il tema del venerdì, anche la settimana scorsa. Di venerdì parlavamo di Ibra in chiave Milan. Per me, lo ribadisco, io sono convinto che lui sia un'eccezione a tutte le regole, a tutti i predicozzi sulla diciamo poca opportunità delle minestre riscaldate, tutti i discorsi che si possono fare razionalmente sulla scarsa congruità economica, sì, economica. Ma razionalmente ci credi? Ha un senso questa cosa? Certo, ci credo. Già è difficile pensare che il Milan possa pensarci. È il miglior giocatore che la dimensione del calcio italiano del nostro campionato possa prendere, perché qui non può arrivare Cristiano Ronaldo, non può arrivare Messi, inutile nasconderselo, e quindi secondo me è il giocatore migliore in assoluto dal punto di vista tecnico e di impatto che può arrivare nel campionato italiano. Per cui, per me è così, per cui è ovvio che ci si possa pensare. Costa molto, economicamente è una follia nel lungo termine, perché chiaramente è un investimento a perdere dal punto di vista economico, però magari quel paio d'anni in cui perdi un sacco di soldi dal punto di vista economico pagandogli un ingaggio pazzesco e creando magari un effetto domino nei confronti degli altri giocatori, però magari vinci. Sì, magari è quell'acceleratore di cui parliamo, ne abbiamo parlato di Ibra sul Milan, ti garantisce, non so, la certezza, perché la certezza non ce l'ha nessuno, ma diciamo ragionevolmente di poter accorciare i tempi per tornare là in alto. Poi io non ho capito se i tifosi dell'Inter lo rivorrebbero o no, perché non è che Ibra si sia lasciato benissimo con il mondo Inter. 800 24 00 24, saluto Giacomo Ciccio Valenti, ciao Giacomo. Ciao Giovanni, ciao Piero, scusate la voce, ma ciao, tutto bene, a parte la uccidine, anche perché da stamattina che ragiona a voce alta su Ibra sì o Ibra no, è indubbiamente giocatore che spacca e spacca anche la stessa coscienza del singolo tifoso nerazzurro. Secondo me Ibra ha fatto una cosa che è difficilmente perdonabile rispetto a quello che è stato ai tempi, il mal di pancia, il gesto della, del distributore automatico di benzina, insomma, tutte una serie di cose. Onestamente, un giocatore, tutta la cattiveria che si può dire, è il giocatore per cui è stato rottamato, voleva andare via per vincere la Champions e noi Puppa Bello l'abbiamo vinta senza di lui. Sì. Bisogna essere anche onesto e dire, come diceva prima, purtroppo Pierre è il giocatore più forte che può in questo momento venire in Italia. E insomma, se non lo prende l'Inter, lo prende il Milan, ovviamente ti può dar fastidio. Però ci sono anche, secondo me, ma non voglio fare dei moralismi all'antica, ci sono dei meccanismi anche di valori. Cioè, se tu fai quel gesto, se ti comporti in quella maniera, se vieni qua, almeno devi chiedere scusa. Io la penso così. E tu, Ibra, che chiede scusa, immagino non ce lo vedi. È impossibile. Però è aspetta impossibile. A rispondere, perché c'è il traffico. Poi torniamo, 800 24 00 24. Il signor Pardo è pregato di cambiare telefono. Tutti convocati. Tutti convocati. La squadra sta facendo bene, sto aiutando la squadra e loro aiutano me. Cazzo guardi! E grazie! Prego, 800 24 00 24. Noi ci sediamo qui, Pierluigi Pardo, io, Giacomo Ciccio Valenti, aspettiamo anche Carlo Genta e aspettiamo che Ibra chieda scusa se davvero deve tornare all'Inter. Vi leggo qualche messaggio che è arrivato, ne stanno arrivando tantissimi. Non scherzate, se torna quel mercenario straccio l'abbonamento. Questo è Marcello, immagino tifoso dell'Inter. Poi Gaetano Da Lucca, finalmente Zlatan torna nella squadra per cui ha sempre tifato. Deve cambiare maglietta appesa in cameretta, Ciccio? Beh, oddio, lui aveva detto questo, ma poi è un tormentone che... Lo stesso Onda, quando arrivò al Milan, disse che era milanista sin da quando era piccolo, quindi era scooter. Per cui, insomma, ognuno ha trovato questa formula strepitosa. Devo essere sincero, Giovanni e Pier. Ibra divide. Cioè, io stamattina ho... Sì, io non ho capito se tu lo vorresti o no. Non ho capito se il tifoso medio dell'Inter lo vorrebbe o no. Non ho capito neanche io. Di fronte ai colori nero-azzurri e quello che lui ha fatto nei confronti dell'Inter, no. Quindi ancora non ho capito io se lo voglio o non voglio. Anzi, ti dico sinceramente, in questo momento partorisco l'idea, no, non lo vorrei, non vorrei uno che è leone con le pecore, pecora con i leoni, non voglio uno che se n'è andato via per vincere la Champions e poi non l'abbiamo vinta, non voglio uno che ha fatto quel gesto al pubblico nerazzurro, non voglio uno onestamente di questo tipo. Poi riconosco la bravura, riconosco tutto, ci ho messo un po' a partorire l'idea, ma adesso la luce del fritto misto che mi sono appena scrofanato, il tempo non è iniziato a vivere. E quindi posso dirti che non vorrei Ibrahimovic all'Inter. Ma per colpa del fritto misto, per colpa del fritto misto. Perché secondo me, se avessi fatto non so, un polpo all'insalata, già. Sì, una cosa più leggera. Capito? Un livornese porpo briao, che è quello che si ciuccia tutto il vino per poi arrivare. No, sono sincero, no, ci sono dei punti, secondo me, oltre i quali non puoi andare. Cioè, penso ancora al calcio con un po' di romanticismo. Fai quel gesto ai tifosi interisti, te ne vai, anche perché andandotene tu ti abbiamo rottamato, abbiamo preso i giocatori giusti, abbiamo preso fior fior di giocatori che sanno fare leoni con i leoni e non con le pecore, che si chiamano Samuel Eto'o, che si chiamano Milito, che si chiamano Thiago Motta, che si chiamano Schneider, abbiamo vinto tutto quello. E che tu dici vinto. Perché invertire infatti, il corso della storia? Posso dire che la vendetta nei confronti di Ibra, secondo me, adesso io provo a mettermi nei panni del tifoso e chiaramente non ho lo stesso approccio della Cinzoretti, no? La vendetta già c'è stata, cioè Ibra da questo punto di vista non si offenderà, ma è un grandissimo giocatore sfigato, nel senso che uno che avrebbe meritato sicuramente di vincere la Champions per la qualità che ha, e che certo. Va al Barcellona per vincerla e quell'anno lì Barcellona esce contro l'Inter, per cui io ti dico sinceramente, Ciccio, adesso io ti lascio svolgere il fritto misto nella maniera più opportuna, però io credo che aspettarsi o chiedere a Ibra di chiedere scusa sarebbe abdicare alla sua personalità. Ibra secondo me è un'eccezione ed è nella storia romantica del lo è certamente in una maniera, in una forma che non è quella di Elia Zanetti, che non è quella di Francesco Totti, che non stia dov'è Pier, che stia dov'è, secondo me ci sono delle, c'è un codice di cavalleria che si può fare, cioè si può dire scusato, ha fatto la boiata ai tempi, poi, anzi, si riconosce anche la vittoria degli altri quando lui voleva andarsene. Lo puoi mettere anche in maniera ironica, lo puoi dire. A me del libero personaggio mi è anche piaciuto in alcuni momenti, il famoso cazzo guardia è una cosa onestamente una delle più cliccate al mondo, ma secondo me c'è il pezzo dell'intervista quando lui cambia lingua e esce dall'aeroporto, che è un capolavoro, cioè strepitoso. Però penso che ci siano delle, dei punti di riferimento e, non lo vuoi. Onestamente no, va bene. Guarda Pier, che sono in tanti tra i tifosi dell'Inter che ci stanno scrivendo a pensarla così. L'interista, a differenza di altre squadre dove ci sono delle indicazioni di fare una certa direzione, l'interista vive anche di conflitto dialettico molto forte, insomma, per cui ci sono le varie correnti di pensiero ed è come è bello anche questo, insomma, per cui io personalmente mi va bene una strada intrapresa, pur riconoscendo che secondo me Ibrahimovic singolarmente è il giocatore che può spostare gli equilibri, per l'amor di Dio. E poi posso dirti, Pier, secondo me i tifosi dell'Inter da oggi hanno già un altro idolo, che è Geoffrey Kondogbia, che oggi, giornata di presentazione, ha detto a Mancini: non si può dire no, io non ho mai esitato, non ho mai detto sì al Milan. Quindi abbiamo scherzato tutti per una settimana. Sì, però freniamo con queste cose, freniamo con queste cose, perché poi Paolo Sosa salta chi non salta. No, ma l'ha detto lui, non l'ho detto io. Sì, no, lo so, no, lo so Giovanni, però no, dico in generale. Secondo me sono giocatori che vivono, hanno dei contratti, secondo me ci sono tra il fare il gesto del distributore che fece ai tempi Ibra e dire sono stato interista da sempre o ho detto no almeno sono interista dentro. Ci sono un po' di sfumature, no? Io non vedo l'ora, onestamente, che i cugini milanisti possano gridare a Mihajlovic che non salta un nerazzurro, e voglio vedere veramente il dramma interno di Mihajlovic in quel momento. Una cosa, io preferisco Ibra fra queste due, al di là del fatto che sicuramente Ibra ha avuto dei momenti maleducati, il gesto della pompa di benzina ce l'ho chiarissimo, per cui per carità. Non è che non lo sto giustificando, non sto dicendo che si è comportato bene, però alla fine fra l'ipocrisia è il politicamente corretto, è un calciatore che è un calciatore nomade per definizione, perché è uno che ha abbracciato mille cause, è uno che ha voglia e che ha bisogno di stimoli di un certo tipo, cioè non è che... Sì, ma guarda che Piero, ho capito, ma al di là delle scuse è veramente leone con le pecore, pecore con leoni. Secondo me l'Inter deve costruire una squadra capace di tornare a vincere a Madrid, quello che è successo, perché l'emozione l'abbiamo vissuta. Ibra è sicuramente il giocatore più forte che può arrivare al campionato italiano. Vorrei pensare in un futuro dove a Madrid Ibra non c'era, non ci sarebbe mai potuto spostare. Io credo che potremmo andare avanti per ore, e credo che quella prima pagina del Corriere dello Sport oggi abbia fatto discutere in tante spiagge e in tanti bar sport. La concorrenza era anche in sciopero, per cui insomma è stato un bel giochino. Poi vedremo. Ma bravi, cioè, hanno poi vedremo che cosa c'è dietro, se magari non è anche del mitico Mino Raiola, che ma giusto così, si sta parlando di quello, cioè lo stesso interista si mette in gioco, per cui va bene così. Grazie Ciccio. Come? Grazie. A voi. Grazie Giacomo Ciccio Valenti, 800-24-0024. L'ultima cosa, si è ironizzato un po' sul mal di pancia di Ibrahimovic all'inizio della settimana. È vero che hai mal di pancia? Mi fa male pancia quando vedo te. Grazie. Capito Pier? Mi faceva male di pancia quando vedeva l'ottimo Nebuloni. Ma dai, ma sono Nebuloni, ma si può rispondere in questo modo? Salutiamo Nebula. Sì. Scusa, facciamo una cosa molto molto divertente. Chiamiamo Nebuloni e Spadini. Vera Spadini, che dovrebbe essere, credo, in Sardegna dalla Baldaccini, così ce la saluta. E Massimiliano Nebuloni, che sono stati involontari protagonisti, poi Ibra. Sono state le vittime. Ecco, chiamiamoli, sentiamo loro che cosa, se vorrebbero rincrociare sulla loro strada Ibra al più presto, Milano, sposta sulla Milano, borsa li chiamiamo, con Giorgio De Luca li chiamiamo e vediamo se riusciamo a fare questa carambata. 800-24-0024, io non faccio una sintesi delle decine di messaggi che stanno arrivando, Pier, e se devo fare una stima mi sembrano più contrari che favorevoli gli interisti. Ivo da Venezia. Ciao a tutti, grazie per la convocazione. Da tifoso interista dico assolutamente, mi ricordo perfettamente il gesto del distributore, per quel motivo lì direi sempre no a Ibrahimovic. ma allo stesso momento, considerandolo un acceleratore pazzesco, dico che la sola notizia penso abbia mandato in depressione i tifosi del Milan, che si ritrovano con un unico grande acquisto secondo loro, che è quello di Bacca, e Ibrahimovic forse un po' gli sistemava la restante parte dell'anno, e il pensiero di portarglielo via, detta sinceramente, mi fa godere un casino. Sì, quindi, perché c'è anche questo aspetto, no? Forse solo per quello lo teniamo in panchina e glielo portiamo via al Milan. Il ricordo dei vanti che hanno sempre avuto i milanisti nei nostri confronti, di essere sempre stati quelli che poi arrivavano a fare la farona, ecco, tutto là. Hai capito, Pier, prenderlo e tenerlo in panchina, ma prenderlo per fare uno sgarro al Milan. Ma quale panchina, ma quale panchina? Vabbè, io forse sono... forse vedo il calcio in una certa maniera, e quindi per me è un giocatore pazzesco per il livello. Però è legittimo, lui non si è lasciato bene, è come Balotelli, che tutte le volte che esce il nome di Balotelli accostato all'Inter, lo prendesse il Milan, lo prendesse chi lo vuole prendere. Però se io ti dico che secondo me non lo so, io penso che arriva all'Inter, ci sarà qualche mugugno, qualche polemica, poi alla terza partita vinta scoppia la libera mania. C'è anche chi si chiede che cosa succede ai Cardi, ad esempio. No, ma infatti, ecco, se facciamo un discorso, diciamo, più razionale, premesso che poi, attenzione, io ho enorme rispetto di quello che dice Ciccio Valenti, cioè credo che questa sia una parte assolutamente nobile del calcio, la più importante. Abbiamo detto mille volte, il calcio senza tifosi non esiste, e l'accettazione di questo acquisto, l'entusiasmo dei tifosi è importantissimo, quindi tu fai benissimo a dar voce a tutto questo, ed è rispettabile, interessante e letterario e bellissimo. Io chiaramente non ho l'approccio del tifoso, non me ne può fregare di meno, e quindi ti dico che secondo me chi lo prende fa un grande colpo, sia esso il Milan, l'Inter, il Napoli, la Roma, la Fiorentina, la Lazio. L'unica squadra alla quale francamente secondo me non serve uno come Ibra, perché secondo me è già abbastanza forte, è già sufficientemente squadra, è la Juve, che forse rischierebbe addirittura, potrebbe addirittura rischiare di più di quello che può guadagnare. Eppure c'è qualche juventino che sta scrivendo dicendo: noi al posto di Tevez Ibra lo prenderemmo e lo accoglieremo a braccia aperte, ma li ha lasciati prima della Serie B, perché era stato un divorzio non indolore. Ma che doveva fare Ibra? Non si può pretendere. Dai, Ibra è un amante, non è una moglie, non potete provare, io ti cambierò, ma che devi cambiare? Quella è un amante, ma cosa gliene frega a lui della Juve, dell'Inter, del Milan? Si sarà affezionato alle persone. Io l'ho frequentato un po', ovviamente, vagamente nel periodo milanista, perché era presente, aveva un ottimo rapporto con Cassano, e stava molto bene, secondo me molto legato al Milan, quando tu qualche giorno fa dicevi che probabilmente il Milan potrebbe spuntare delle condizioni, sì, particolarmente a certe cifre lo fa solo il Milan. Però alla fine Ibra va dove lo porta, ma non il portafoglio, attenzione, non soltanto questo, va dove lo porta secondo me il portafoglio da una parte, e la sfida professionale. È uno che vuole vincere, che vuole sentirsi vivo e che ti fa sentire vivo. E quindi non gli puoi chiedere di fare la passeggiatina mano nella mano, con tutto il rispetto, da pensionati a 65 anni. Gli devi chiedere delle emozioni forti che lui ti può dare. Io però Pier, e poi abbiamo la borsa, ti dico la verità, Ibra di ritorno all'Inter non lo vedo, ma questo è il mio parere. C'è Andrea dalla provincia di Firenze, c'è però prima la borsa. Tutte puttanate. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Che dire, arrieccici. Tutti convocati. Ma noi stiamo lavorando, i nomi poi li fate, li conoscete, stiamo lavorando, come detto, per completare laddove non siamo ancora coperti. In particolare in questo momento basta guardare i numeri, basta vedere gli allenamenti che osservi tutti i giorni, il reparto offensivo è proprio deficitario dal punto di vista numerico, quindi abbiamo una priorità di completare quel reparto prima degli altri. Sulla difesa e sul centrocampo ci sentiamo già soddisfatti di come la rosa in questo momento. Hai capito, Pier, questo era Marco Fassone, direttore generale dell'Inter, ieri. Devono lavorare sull'attacco, i nomi, dice, li sapete, sono quelli, fate voi. E poi questa mattina si è svegliato anche lui e ha trovato il nome di Zlatan Ibrahimovic. Oh Pier, ci sono Andrea dalla provincia di Firenze, Gabriele dalla provincia di Forlì Cesena, leggo anche qualche messaggio che è arrivato, c'è chi dice se Ibra torna all'Inter cambio squadra, 51 anni e faccio la tessera del Toro, Ivan da Monza, poi c'è Mario che dice il presente e futuro dell'Inter deve essere Mauro Icardi, Ibra no grazie, c'è Ulisse che scrive se Icardi gioca assieme a Ibra è una coppia mondiale, ho visto un altro messaggio che dice in 2 anni vinciamo la Champions, c'è chi scrive Ibra è una puttana. C'è anche chi scrive questo, ognuno la pensa come vuole. Andrea dalla provincia di Firenze. Andrea. Ciao a tutti, buon pomeriggio e grazie per avermi convocato. Grazie a te. Io sono tifoso milanista, mi sono messo così a ridere quando il primo ascoltatore interista, adesso non ricordo il nome, scusate, sì. Mi faceva ridere per il fatto che voleva fare uno sgarbo ai tifosi milanisti, anche perché quest'anno il calciomercato è iniziato davvero bene, perché dovevamo prendere parecchi giocatori e poi sono andati all'Inter, ma io comunque sarei favorevolissimo al ritorno di Ibra al Milan, perché comunque sia è un personaggio e tecnicamente è veramente forte, sotto il profilo magari della persona sarà quello che sarà, per carità, ognuno ha i suoi pregi e i suoi difetti. Non mi sono piaciute le sue uscite, però diciamo così lo giustifico. Sì, tu al Milan te lo prenderesti. Tanto non lo prenderemo sicuro. Se andasse sicuro, all'Inter. Ho già sentito, appena iniziata la puntata, ho sentito che si parlava di Inter, ha detto aia, qui ci siamo, l'altra fregatura. Quindi perché che Galliani, se andasse all'Inter sarebbe un incubo. Ma non è tanto l'incubo, è che quest'anno Galliani ha fatto tanti annunci, è andato a fare tante cene, tanti pranzi in giro per l'Europa e noi siamo rimasti col cerino in mano. Adesso si parla di Romagnoli, ma anche di 30 milioni per Romagnoli. Sì, poi vi faccio sentire Garcia che su Romagnoli in realtà non ha risposto e a me ha lasciato proprio così l'impressione che Romagnoli sia e come sul mercato, quindi se il Milan ci sta lavorando a un gran colpo. Gabriele dalla provincia di Forlì Cesena. Buongiorno a tutti. Buongiorno. E grazie per avermi convocato. Io sono un attempato tifoso dell'Inter perché ho 70 anni, sono andato a vedere anche il ritiro la settimana scorsa all'inizio. Io sono contrario a Ibrahimovic perché andrebbe a rompere l'equilibrio della squadra con i suoi, sicuramente con un super, super ingaggio, tutto quanto, quindi poi tra un anno o due potremmo anche pentirci di tutto questo. Ci sono ottimi giovani, ottime se l'Inter ha intenzione di investire, perché questo è un investimento grosso, io lo farei su altri giocatori, perché sicuramente con quello che gli può costare Ibrahimovic e come ingaggio e come tutto può andare a scegliere 2 o 3 giocatori di una certa levatura. Sì, anche se Gabriele, non so Pier, cioè tu credo sia assolutamente d'accordo, io non conosco squadre che si siano pentite di aver ingaggiato Ibrahimovic. Ma nessuno, no. Ma adesso per esempio su Twitter mi scrivono meglio Götze e Oscar, non scherziamo, non è il numero uno. Per me Götze e Oscar onestamente nel campionato italiano non hanno l'incidenza che ha Ibra. Poi ci sono delle incognite, perché io l'ho detto per primo, cioè è chiaro che è un investimento antieconomico, è chiaro che Ibra potrebbe anche essere invecchiato, non ci sono grandi segnali da questo punto di vista perché ha continuato a far molto bene, però ci può anche stare il ragionamento di chi può pensare che non sia il giocatore di 4-5 anni fa, quindi ci sta questo ragionamento, è un investimento sul presente ed è un investimento antieconomico, non ci sono dubbi in prospettiva. Però può rendere subito, però insomma. Però forse. Però i tifosi dell'Inter, mi pare di aver capito, non lo vogliono, Piero. Sai che abbiamo al telefono uno che Ibrahimovic lo conosce molto bene, anche se adesso fa tutt'altro e con lui parleremo di tutt'altro. Certo. Lo saluto, Stefano Filucchi. Filucchi, buongiorno. Buongiorno a voi. Che oggi è vicepresidente del Cagliari, ma per anni è stato braccio destro di Moratti, è stato dirigente dell'Inter, proprio in quegli anni lì dove c'era Ibra. Posso chiederle se... Che effetto le fa, insomma, tornare a vedere il nome di Ibrahimovic accostato a quello dell'Inter? Beh, sicuramente soddisfazione, abbiamo dei ricordi bellissimi con Zlatan, abbiamo veramente vissuto esperienze indimenticabili, così come per l'Inter di tutti quegli anni. Quindi grande, grande felicità. Penso che l'Inter stia facendo l'Inter una bellissima, una grande squadra. Questo, molto contento per l'Inter, per i suoi tifosi, insomma, mi sembrerebbe una cosa straordinaria. Avevi certezze, Pier, sulla partenza della prossima stagione di Serie A? Beh, insomma, diciamo che 22 agosto con i primi anticipi, insomma, mi sembra che ad oggi da parte delle istituzioni ci sia stata una netta separazione tra la Serie A e la Serie B. La Serie B, che ha preso coscienza della gravità della situazione, ovviamente è fresca di scandalo, no, con la vicenda del Catania, e quindi si è presa queste due settimane in più. La Serie A, che fino a questo momento fa un po' la vaga, anche se mi pare che il Cagliari abbia fatto un richiamo, ecco, era proprio generale, era, no? Proprio questo che volevamo capire. Questa mattina da Repubblica abbiamo un po' tutti scoperto che il Cagliari ha mandato una lettera alla Procura Federale, non alla Federcalcio, ma alla Procura Federale, per chiedere sostanzialmente di aspettare a fare i calendari, a fare tutto, in attesa di capire se qualche club o qualche tesserato di Serie A coinvolto ad esempio a Cremona nelle richieste di rinvio a giudizio non possa trascinarsi delle penalizzazioni che potrebbero riscrivere anche l'ultima classifica. È questo il senso, Filucchi? Ma guarda, noi abbiamo sostanzialmente chiesto anche alla federazione e anche al CONI, oltre che alla Procura Federale, in una missiva, di sapere se sulla base delle notizie apparse in questi giorni relative alla chiusura indagini ex 415 bis della magistratura penale riguardante tesserati di Serie A, se debbano prendersi provvedimenti o decisioni, che questo avvenga nel più breve tempo possibile, perché ci toglie anche dall'incertezza, come voi capite, di fare mercato in entrata e in uscita in un certo modo, campagne, abbonamenti, vendita di pubblicità, sponsorizzazioni eccetera. Quindi insomma, una situazione di incertezza, cioè se la classifica non è definitiva per questi motivi di cui abbiamo notizia stampa, chiediamo che questo, insomma, logicamente la decisione venga presa nel più breve tempo possibile. Posso essere un po' maligno? Sì. Siete rimasti un po' male negli ultimi due giorni leggendo le ricostruzioni secondo cui il filone Serie A, i nomi li faccio io, Atalanta, Colantuono, Lazio, Mauri, potrebbe andare a dopo l'estate? No, noi abbiamo assolutamente, ripeto, non è una frase fatta, assolutamente fiducia e totale rispetto per le decisioni della magistratura. I tempi non li decidiamo noi, ci sembra giusto che se c'è qualcosa che riguarda la massima serie sia decisa velocemente. Premessa doverosa ma non scontata: i nostri rapporti con l'Atalanta sono i migliori, abbiamo una stima per la proprietà e per i dirigenti, io personalmente ho una amicizia di anni e di stima con Pierpaolo Marino, quindi non c'è niente di per. Chiediamo soltanto se si tratta, come si evince dagli articoli stampa, dalle notizie che riguardano il lavoro della magistratura ordinaria, magistratura penale, se questa classifica non è definitiva, di conoscere qual è la classifica definitiva alla luce di decisioni che mi sembra giusto siano prese velocemente, insomma, riguardando oltretutto la Serie A. Poi è importante qualsiasi campionato che riguardi il calcio e lo sport, però tanto più la Serie A. Pier? Sì, correggetemi se sbaglio, ma la sanzione dovrebbe essere assolutiva, come si dice, cioè dovrebbe cadere su questa stagione. Quindi diciamo che quello che si rischia è un cortocircuito, è il cortocircuito che dal punto di vista teorico, l'eventuale, ovviamente tutta eventuale sanzione nei confronti dell'Atalanta, ma non soltanto dell'Atalanta, tutto il sistema in qualche modo legata a questo tipo di procedimento dovrebbe ripercuotersi sulla stagione che si è appena conclusa, e che poi invece per un discorso burocratico di tempistica ovvia, perché non è che insomma, possiamo aspettare dicembre e l'inchiesta per cominciare il campionato, invece di fatto questa cosa venga procrastinata e si spalmi sulla stagione successiva. È questo un po' il pericolo, Filucchi? Il principio dell'afflittività e della tempestività sono pilastri fondamentali dell'ordinamento sportivo, ritengo, dovrebbero esserlo poi in generale, però l'afflittività in particolare dell'ordinamento sportivo, e quindi è auspicabile sempre che le decisioni vengano prese, ovviamente accertato tutto, ripeto, nei tempi che possano concedere a tutte le squadre di muoversi in modo coerente con quello che sarà il futuro della prossima stagione. insomma, ripeto, pensate all'imbarazzo di dover fare un mercato in uscita e in entrata, ripeto, ma anche la campagna abbonamenti, prefigurandosi una determinata situazione per il prossimo campionato, oppure sapere che le cose possono cambiare, oppure che le cose cambieranno fra 20 giorni e un mese. Sì, senza sapere che cosa succede. Io ho ancora una domanda, però c'è il traffico, chiedo un minuto di pazienza a Filucchi, a Pierluigi Pardo, prego. Traffico, poi torniamo. Battaglia, andiamo da Nando San Vito. Nando. Tutti convocati. Convocati. Tanto arrivano sms meravigliosi sulla questione Ibra. Il più bello è di Stefano da Monza, ma ve lo leggo dopo. Con Stefano Filucchi invece volevo chiedergli che sensazione gli hanno fatto le dichiarazioni, sempre su Repubblica di questa mattina, di Pierpaolo Marino, direttore generale dell'Atalanta, che dice: ci sono tante operazioni di sciacallaggio intorno alla nostra posizione, non dobbiamo temere nulla, ma si stanno muovendo in troppi. Filucchi. Ripeto, massima stima per Pierpaolo e capisco il suo dovere e diritto di difendere la società per la quale così bene lavora. Noi abbiamo diritto di difendere i diritti, ripeto, scusatevi il bisticcio di parole, dei nostri tifosi, della società, il patrimonio della società. Chiediamo soltanto di conoscere, ripeto, si conoscono tizie stampa, magari, voglio dire, nelle indagini contengono altre determinazioni verso altri tesserati, noi non sappiamo, ci basiamo su quello che c'è sulla stampa. Chiediamo di sapere se questa è la classifica definitiva, se non lo è che si prendano, secondo noi, ripeto, per il principio della tempestività, tenendo conto degli altri pilastri come l'afflittività citata prima, che si prenda la decisione in un tempo ragionevole ma veloce, in modo da poter continuare a lavorare in serenità. Quindi nessuno, se lo sciacallaggio è rivolto al Cagliari, è completamente fuori luogo, chiediamo soltanto che si decida, poi il procuratore federale e i giudici federali decideranno di conseguenza. Piera, in ultima curiosità, poi lo salutiamo? No, sì, io ad esempio sono curioso di sapere che squadra stanno costruendo, ad esempio se è vero che Astori nelle prossime ore va al Napoli o no. Noi stiamo, avete seguito le notizie, perché fortunatamente e sfortunatamente nel calcio esce sempre tutto. Noi stiamo trattando i giocatori che meritano di giocare in un campionato diverso, ma anche questo sarà così? Vede, lei mi fa una domanda che già ci riporta alla prima parte della nostra discussione, e quindi sarebbe agevole decidere avendo le idee chiare. Astori è un giocatore di grande prestigio, un giocatore molto forte nel suo ruolo, sicuramente uno dei migliori, ha molte richieste, una richiesta è quella del Napoli, società con la quale noi abbiamo ottimi rapporti e un ottimo feeling, quindi nel caso in cui Astori sia in partenza sicuramente il Napoli è favorita, ripeto, per gli ottimi rapporti che ci sono con la società e anche per accontentare il giocatore, ove sia questo il suo desiderio. Napoli in pole position, grazie. Prego, Pier. No, volevo sapere se Moratti, Filucchi è, insomma, ha un rapporto molto bello, molto profondo, di grande amicizia, credo anche personale. Uno come Moratti però lo riprenderebbe? Ma io credo che Moratti riprenderebbe tutti i giocatori, credo che non ne prenderebbe veramente pochi, forse con gli allenatori rifletterebbe su qualcuno, ma per i giocatori su uno o due in particolare, credo. Uno o due, io sono stato negli ultimi 10 anni e ne ho passati un po', perché insomma da Mourinho, per citare quello che ha vinto di più con noi, agli altri sono state tutte belle esperienze, sicuramente sugli allenatori forse di qualcuno ne farebbe a meno, i giocatori credo che li riprenderebbe tutti. Vabbè, il primo è Cino Recoba, ovviamente tutta la vita. Sì, anzi, credo che abbia anche versato una lacrimuccia per il ritiro annunciato. Grazie Filucchi. Sì. Bene, grazie a voi, grazie a voi, ciao, buon lavoro. Complimenti, ciao, per il figliolo, l'ho commentato l'altro giorno in una partita. Grande qualità. Tutto suo padre. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a Stefano Filucchi, vicepresidente del Cagliari. Pier, tu chi avevi chiesto di convocare? Nebuloni e Spadini. Ecco, Spadini no, Nebuloni sì. Ciao Max. Presente, ciao, buongiorno. Ciao Nebula, prima hanno fatto risentire, ciao, quell'Inter Pier. Regina, io fra l'altro facevo la telecronaca di quella partita. Ma tu lo rivorresti Ibra? Io personalmente no, beh, da giornalista insomma, giocatori con quella personalità hanno sempre un grande appeal dal nostro punto di vista. Io sinceramente non vedo grandi spiragli in questo senso, almeno da quello che mi risulta, anche perché l'Inter proprio ieri avrebbe raggiunto l'accordo con Jovetic, quindi sarebbe vicino a un altro giocatore che piace a Mancini per l'attacco. Prendere Ibra vorrebbe dire sconfessare, secondo me, tutto quello che è stato fatto fino adesso, perché hai il capocannoniere del campionato che verrebbe comunque oscurato, hai Palacio che non parte magari titolare, però è un giocatore che in un certo sistema di gioco può dare ancora tanto, hai Perisic con il quale c'è un discorso molto ben avviato con l'Infosburg, e quindi prendere Ibrahimovic, secondo me, vorrebbe dire rivoluzionare completamente l'attacco dell'Inter. Io non so fino a che punto questa cosa possa essere nella testa di Mancini. Anche perché soprattutto è solo campionato e Coppa Italia, non hai neanche l'alibi di dire ho una doppia squadra da costruire. Altri due aspetti: uno, non giocherebbe la Champions League e quindi insomma perderebbe un altro anno per tanto non la vince, quindi... questo traguardo, e poi sarebbe un'operazione economicamente pazzesca, insomma io non so poi sì, i soldi dove si vadano a prendere, ecco, tutto qui. Perfetto, ma tu vuoi avere la di parlare? Sì, cioè noi vogliamo sapere se no? Ti ha mandato una rosa, se ha fatto qualche gesto, perché poi c'è anche questo tema, diceva prima Giacomo Ciccio Valenti, se torna all'Inter deve chiedere scusa. Ibra è uno che chiede scusa o no? Ibra non chiede scusa per principio, non l'ha chiesto alla collega Vera Spadini, che era stata offesa ben più di me, insomma, qualche mese dopo alla fine di una partita del Milan, e comunque non è uno che chiede scusa per indole e alle donne, figuriamoci a me. Ecco, ma me ne sono fatto una ragione. Sì. Ma immagino, sai, in ottica vivi una vita piuttosto felice ugualmente, per questo non ci sono dubbi, posso testimoniarlo, quindi. Senti, approfittiamo di Max per chiedergli, abbiamo letto prima la frase di Kondogbia che ha detto, io non ho mai detto sì al Milan, ho sempre scelto l'Inter, a Mancini non si può dire no, pronto per entrare nella galleria delle frasi, quelle mitologiche, nei giorni delle presentazioni. Sì, sai, fa parte del gioco, a me però ha dato subito l'idea di essere uno con una certa personalità, mi dice chi l'ha seguito a lungo in Francia, osservatori insomma che in questi anni l'hanno visto in azione già prima del Monaco, non è uno di non è il vero leader, ecco, non è Pogba per intenderci, però è un giocatore che ha determinate caratteristiche che in un certo sistema di gioco ti fanno fare il salto di qualità. Insomma, è uno che ha davanti almeno 10 anni a grandissimi livelli, è uno che ha la testa sulle spalle, è un giocatore, secondo me, che l'Inter dovrà cercare di valorizzare, di valorizzare al massimo. Poi, sai, questi sono i giocatori che se esplodono come Pogba, nel giro di 2-3 anni hai sotto la sede tutti i grandi club europei che ti fanno la corte e rischi di perderla. Però se l'Inter, insomma, imposta la squadra in un certo modo, e Mancini in questo senso mi sembra che abbia le idee chiare, può essere uno che nell'Inter che può rappresentare insomma l'inizio di qualcosa di importante. Sì, tra le certezze che deve partire bene subito, perché altrimenti certo, quei milioni di euro che è costato, che si porta dietro come etichetta, potrebbero pesare per tutti. Grazie Max Nebuloni. Ciao, a Max. Voi. Il messaggio più bello era quello di un amico che scrive: vi risulta che l'Inter voglia Romagnoli, Witzel e stia cercando di costruire uno stadio al Portello? Bellissimo. Ciao Pier. Ciao. Torniamo dopo il GR delle 15. Ciao Luigi, ciao Pierluigi, ciao a tutti e due. Tutti convocati. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Radio 24 e il Sole 24 Ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. Chiedimi anche se sono felice, il mondo dalla prospettiva del cane, che cos'è, Angelo? Dice la parola stessa. È il mondo dalla prospettiva del cane, ci dobbiamo chiedere se il nostro cane è felice, come facciamo? Dobbiamo conoscerlo, quindi parliamo di alimentazione, della dieta barf, di psicologia, di telepatia con gli animali, un sacco di argomenti. Fantastico, tutti i sabati alle 15 e tutte le domeniche alle 10 del mattino. Vi aspettiamo, Rosita Celentano e Angelo Vaira su Radio 24. Dove ti piacerebbe andare quest'estate? In un posto poco conosciuto e possibilmente a buon mercato. E che cosa ti piacerebbe fare? Riempirmi gli occhi di cose belle. Con chi ti piacerebbe partire? Con la mia famiglia e i miei amici a quattro zampe. E tu? Con i miei amici, con mio marito o forse anche da sola. Sono Annerita D'Ambrosio. Sono Valeria De Rosa. Ogni settimana vi accompagneremo in giro per l'Europa. Vi aspettiamo a Globetrotter 24. Globetrotter 24, il sabato alle 16 e la domenica alle 17:30 su Radio 24. C'è la belva delle favole e c'è la belva della realtà. Dobbiamo imparare a farci i conti con questa belva, a misurarla e a controllarla. Insieme a voi, facendovi parlare, facendovi ascoltare, facendovi anche arrabbiare, provocandovi i conti della belva con Carlo Alberto, Carnevale Maffè e Oscar Giannino, tutti i sabati dalle 10 alle 12 su Radio 24, i conti della belva. Il segnale orario vi è offerto da Gran Moravia e burro delle Alpi di Brazzale. Fidati di chi conosci da 200 anni. Come cambia l'Italia vista dal tuo finestrino? Raccontaci il tuo viaggio on the road con una foto. Postala su Instagram o Facebook con l'hashtag TrackInReportage e inserisci nella descrizione Radio 24. I migliori scatti saranno in mostra al Festival Internazionale di Fotografia Cortona on the Move. Tutte le info su radio24.it. Tutti convocati. Io sono entusiasta, io sono sereno, le cose da quando sono arrivato non sono cambiate, io non sono né più debole né più forte che quando sono arrivato. Lavoriamo con lo stesso modo, ognuno al suo posto e ognuno con un suo ruolo ben preciso. Questo Rudy Garcia oggi, a proposito di chi ha scritto che il Garcia 3.0 è triste e un po' freddo rispetto alla Roma che sta crescendo. 800 24 00 24, stiamo qui fino alle 15:30, c'è già il prossimo ospite in collegamento. Mi devo però quella che mi risulta essere la posizione della Federcalcio a proposito della questione di cui abbiamo parlato prima con il vicepresidente del Cagliari Stefano Filucchi. Ebbene, alla Federcalcio questa mattina l'hanno presa un po' così la lettera che il Cagliari ha inviato, tra l'altro non alla Federcalcio ma alla Procura Federale, e quindi è stata presa come una manovra irrituale, diciamo, questa è la definizione giusta. Dopodiché gli atti di Cremona non sono ancora in mano al procuratore federale Palazzi, che dunque non ha ancora letto niente, restiamo semplicemente, per quanto riguarda i nuovi casi, a quello che è scritto sui giornali. Viene letto forse come un tentativo di mettere pressione a chi dovrà fare i processi sportivi. A quanto risulta, allo stato attuale delle cose, non ci sono evidenze che facciano pensare a una possibile riscrittura della classifica dell'ultima stagione per fatti che risalgono a 4 anni fa. E dunque i tifosi dell'Atalanta potrebbero dormire sonni tranquilli. Questo è quello che risulta. Michele Criscitiello, ciao! Ciao Giovanni, ben ritrovati. Da Sport Italia direttamente per fare un po' due chiacchiere di mercato, partendo magari proprio, Michele, da Garcia, che abbiamo sentito e che risale un'oretta fa e che dice: io sono tranquillo, la Roma sarà forte, io ho pieni poteri, non sono stato delegittimato, non so, te che impressione ha fatto? L'impressione è che ovviamente di questi tempi Rudy Garcia non può dire altro se non parlare ovviamente di quella che è la sua attualità, perché già se si presenta tra virgolette debole in ritiro, a quel punto rischia di essere rischiato dall'ambiente giallorosso. Io un pochino ci credo a chi vive Roma e la Roma 24 ore su 24 che questo Garcia 3.0 sia un po' più triste degli altri anni. Secondo me la Roma di questi tempi ancora non si è rinforzata, c'è un Milan e un Inter che si stanno rinforzando, c'è il Napoli che è un punto di domanda e c'è la Fiorentina che è un altro punto di domanda. Secondo me per quello che sta facendo vedere in chiave di calciomercato la Roma e la distanza dalla Juventus diventa sempre più considerevole, la Roma deve preoccuparsi che rispetto agli ultimi due anni non sarà l'unica anti-Juve, anche se in questo momento non c'è un'anti-Juve, però dietro la Juventus la Roma non è più da sola. Sì, anche se qualcosa si sta muovendo, oggi si legge dell'offerta per Sirigu, che è un ottimo portiere che è in uscita dal Paris Saint-Germain, c'è sempre questa suggestione di Dzeko, giocatore che da anni viene accostato a turno un po' a tutte le grandi d'Italia, vedremo se Sabatini riuscirà, ma pare più vicino degli altri che ci hanno provato prima. Credi alla suggestione di Ibra all'Inter? Io no, assolutamente no, probabilmente anzi registratemi e può esserci il rischio di un clamoroso una clamorosa notizia come abbiamo letto oggi sul Corriere dello Sport di Ibrahimovic all'Inter. Secondo me per l'Inter non ci sono i presupposti, l'Inter non deve intervenire con Ibrahimovic. Ho sentito anche le dichiarazioni del grandissimo Ciccio Valenti che giustamente si poneva il dubbio da tifoso nerazzurro. Sì, che non lo vogliono, sono in tanti che non lo vogliono, inutile girarci intorno. Ma a prescindere, ma secondo me non è quella un'operazione né simpatia né tecnica, l'Inter deve crescere con i guardi in fase offensiva, ha dei calciatori importanti, io non credo ad una suggestione Ibrahimovic all'Inter. Se invece è l'ennesima prova di disturbo, manovra di disturbo nei confronti del Milan, secondo me è fine a se stessa. Il Milan ha bisogno di uno come Ibrahimovic, perché va bene Luis Adriano, va bene Bacca, ma uno come Ibra che ti garantisca quella continuità e quel triennio così importante, il Milan ne ha bisogno. Secondo me non è invece un calciatore funzionale al progetto di Toir e di Mancini. Serve per mettere un po' il pepe a una campagna importante, quella del Milan, ma che continua a vedere un po' scettici tifosi, secondo me anche esageratamente. Bisogna anche dare poi il tempo di vedere Luis Adriano, Bacca, Bertolacci, questi giocatori che sono anche stati pagati parecchio, che tipo di impatto possono avere. Sono d'accordo Giovanni, però consideriamo che il Milan dove deve mettere le mani principalmente è in difesa, deve, non dico rifare tutta la difesa, ma il 70% va modificato. Ad oggi invece il rinnovo di Mertens non è un bel segnale, secondo me, e il fatto che Berlusconi debba chiamare, scomodarsi per chiamare Sinisa Mihajlovic per fargli digerire questa pillola Mertens, secondo me questo non è un bel segnale per la difesa. Romagnoli sarebbe un grande acquisto, vediamo a che valore, 20, 25, 15, 18, non lo so, però ovviamente un giovane così importante. Sì, non 30 credo, che è il prezzo che ha fatto la Roma. Speriamo a 30, allora io chiedo 30 per prenderne 20. Se invece la Roma chiede 30 e il Milan gli dà 30, significa che ripeto c'è qualcosa che non va. Bertolacci può passare il concetto dei 20 milioni di euro, Giovanni, perché è un rimborso parziale anche per destro, dove non c'è stato il riscatto dopo l'operazione di gennaio. Quindi Bertolacci, chiudiamo un occhio sui 20 milioni di euro. Ma se dobbiamo parlare di Romagnoli, 30 milioni di euro con giovane sportivo, però 30 milioni, attenzione, dobbiamo valutarle per Vidal, che ha dimostrato tante volte, vincendo con la Juventus, ha dimostrato in Champions, ha dimostrato in Coppa America. Allora se Vidal va al Real Madrid per 30 milioni di euro, ti dico ok, ma Romagnoli 30 milioni di euro significa che perdiamo comunque un concetto di vista, che è quello dell'aspetto e del valore del denaro. Sì, anche se questo è un mercato particolare, di grandi cifre. A proposito di Juventus, Oscar, Berardi o Ozil? Che è anche questa forse una suggestione, ma è l'ultimo nome che è stato tirato fuori per la 10 della Juventus. Oscar è quello che vuole Max Allegri, lo ha detto ad inizio giugno, l'ho ripetuto a metà giugno, e l'obiettivo è Oscar. Si parla di Paratici in missione a Londra proprio in queste ore, nel weekend, per cercare comunque di fare delle operazioni nel giro di massimo 7-10 giorni. Io credo che l'ordine è Oscar in testa a tutti. Per quanto riguarda invece Berardi, lo considero un po' il piano C. Qualora ad inizio agosto la Juventus dovesse vedere fumare diverse trattative, allora si va su Berardi, però credo che non sia un'opzione primaria in questo momento per la Juve. E per chiudere il Napoli, prima Filucchi ci diceva Napoli in pole position, se proprio Astori deve andare via, il Napoli ha un canale preferenziale. Devo dirti Michele che a me il Napoli che sta nascendo non dispiace, anche se vediamo che cosa uscirà, perché prima o poi anche il Napoli dovrà vendere, ma mi pare che stia migliorando un po' in tutti i reparti, più logico, più razionale rispetto a quello di Benitez. Ma io ti dico, se l'attacco è quello che già tutti sappiamo, se il centrocampo è composto da Valdifiori, Allan e Amsic, rivalutando Amsic perché nessuno lo dice, ma Benitez ha bruciato Amsic, e non dico ha bruciato un giocatore qualsiasi, ha bruciato un valore patrimonio della società di De Laurentiis. In difesa, se prendi Astori, hai preso Reina, che comunque è un difensore aggiunto, perché comunque uno che fa sentire il suo peso, devi sistemare completamente la difesa, che lo scorso anno era il grandissimo tallone d'Achille del Napoli di Benitez. Dai più equilibrio alla difesa, compri due giocatori più Astori, quindi secondo me ne servono tre dietro. Anche a me il Napoli non dispiace. Per quanto riguarda l'Udinese, ha ceduto Allan, che è un giocatore fortissimo, recupera palloni, ma ne recupera tantissimi, è un grande acquisto. Poi, se vogliamo parlare delle cifre, secondo me 12 milioni li vale, 15 milioni li vale, e lo dimostrerà. Poi non so se 12-15 più Brito, se più Zapata, può essere un valore eccessivo, però credo che ancora una volta il patron dell'Udinese, Gino, Giampaolo Pozzo, in generale la famiglia Pozzo, abbiano fatto una grandissima operazione tecnica ma anche economica. È questa bottega carissima quella di Udine, ma vengono via anche dei prezzi che valgono poi. C'è il boom degli abbonati a Udine, grazie al nuovo stadio. Beh, ma anche c'è il nuovo stadio, a proposito. 4.500 abbonati, Giovanni, in 6 giorni. Pensa che l'altro boom è quello a Marassi, sponda Genova, dove invece c'è anche un po' di aria di contestazione, ma hanno fatto 14.000 abbonamenti in un paio di settimane. Che anche ma questo quelle sono piazze che ti danno delle garanzie. Quelle sono piazze che danno delle garanzie. Udine invece viene vista come una piazza tra virgolette fredda, e se c'è gente che fa la fila di notte per fare l'abbonamento è perché c'è il nuovo stadio, che è un gioiellino. Marassi è pieno, Marassi con 14.000 abbonati non fa più notizia, Giovanni, ormai Genova e Samp sono delle grandissime piazze che ormai gli abbonati li fanno in automatico, quindi non fa notizia. I nuovi stadi sono una buona notizia per tutti, grazie Michele. Ciao ragazzi, a presto. Ciao, ciao, grazie Michele Crescitiello. Nei rapporti istituzionali con l'Associazione Calciatori San Marinese è uscito questo discorso, e sono due partite, vediamo. Tanto sono in grado di farlo, visto che mi sto allenando, e speriamo di arrivare pronto, e poi l'occasione anche per i miei figli, insomma, di vedermi su un campo internazionale, visto che da qualche anno manco dai campi internazionali, soprattutto europei, e i miei figli, insomma, sono piccoli, sarà per loro l'occasione di vedermi, speriamo, all'Open. Questo era Damiano Tommasi, che ieri ha segnato il gol della Fiorita, che però ha perso 5-1 contro il Vaduz ed è stata eliminata, mentre sempre preliminari di Europa League, l'altro nostro vecchietto Fabrizio Miccoli, anche lui un gol e un assist, ma il suo Birkirkara ha battuto 3-1 l'FC Ulisses e si è qualificato. Europa League preliminari. Andrea da Milano. Andrea, sì, grazie. Eccoci. Sì, buonasera, grazie. Io volevo intervenire, magari un po' in ritardo, sulla questione Inter Ibrahimovic. Puoi dire quello che vuoi, prego. Io ritengo che l'Inter si sia sempre distinta per la sua anima onestà e i suoi valori morali. Per questo motivo, secondo me, da escludere il ritorno di Ibrahimovic, che si è comportato, l'avete detto tutti più volte, in modo veramente sgarbato nei confronti di noi interisti e nei confronti della società, nei confronti di tutti. Per questo motivo ritengo, nonostante sia cambiata la gestione, siano cambiate molte cose all'interno dell'Inter, io ritengo che gli storici, quali Figo, Zanetti, sono che vengono in mente, che fanno comunque ancora parte della gestione, abbiano quasi impedito, tra virgolette, a Toirro o a chi di dovere di seguire la questione Ibrahimovic. No, io non so se Zanetti possa impedire a Tuir eventualmente di seguire una pista Ibrahimovic, non lo so, io l'ho detto prima, mi stupirebbe molto, mi sorprenderebbe rivedere Ibrahimovic con la maglia dell'Inter, però poi il mercato è fatto anche di mille storie. Guerrino da Milano, Guerrino. Buongiorno. Buongiorno a te. Anch'io vado su quell'argomento lì, ho appreso da voi che la notizia dell'interessamento su Ibra. È vero quello che è successo, può succedere un po' anche con noi a calcetto o a giocare chissà dove a botta calda, queste cose qui con la gente che ti guarda o i tifosi, queste cose dell'Inter, però sempre meno grave comunque di aver buttato giù la maglietta come ha fatto Balotelli, perché lì distruggi tutto, sia la società e quindi di conseguenza i tifosi. Io sarei favorevole al ritorno, favorevole per il fatto che con Ibra ti sei assicurato lo scudetto, non ti scappa con la squadra che sta facendo. Io non so se l'Inter possa colmare 40 punti di gap dalla Juventus con la campagna acquisti che sta facendo, molto interessante, e anche con Ibrahimovic, anche perché a Torino non è che sono stati fermi, Guerrino. Esatto, comunque l'Inter se riesce a tenersi ancora, cioè il Kovacic e anche con Ibra può combattere bene lo scudetto con antagonista Juventus che è avanti a tutti. Però perché lui è praticamente è l'uomo dello scudetto, e con l'Inter lui gli è capitato anche di perdere lo scudetto, cioè non è un'equazione che deve funzionare necessariamente. Ibrahimovic uguale scudetto, l'ha anche perso a Milano col Milan ad esempio. Grazie Guerrino. Comunque andiamo in Francia sulle strade del Tour de France. Pier Augusto Stagi, ciao Pier. Ciao, come stai? Bene, come stanno i ragazzi invece, che ho visto anche ieri continuare a capitombolare? Sono un po' acciaccati. Questa mattina parlavo con Paolo Slongo, che è l'allenatore di Vincenzo Nibali, perché è in Astana, e dice speriamo, mi raccontava, speriamo che sia finita, che sia finita qua la sfortuna, perché in questa prima settimana ne sono successe veramente di tutti i colori. Mi ricordava che l'anno scorso a Vincenzo non gli si era neanche mai bucata una gomma, in una settimana ha già avuto una foratura, una caduta e mezza, perché sostanzialmente ieri è caduto, nella seconda tappa invece non è caduto ma ha dovuto mettere piede a terra e ha perso tempo, e alla fine gli è costata anche cara quel rallentamento sul mare del nord a Zeeland, perché ci ha lasciato per strada un minuto e mezzo. Ha avuto diverse vicissitudini, invece sta andando tutto estremamente bene a Chris Froome. Questo non è che gli auguriamo del male, però è così, ci sono delle annate che vanno molto bene. Questa prima settimana ci sta dicendo che il Team Sky e il Team Sachs di Alberto Contador sono sicuramente più baciati, sì, della fortuna. Sono anche punti di riferimento che si aspettava, quindi diciamo la fortuna bacia i belli. Un pochino, invece uno dei due punti di riferimento, ad esempio in Italia e Libori stanno facendo quasi corsa parallela molto, molto sofferta, perché anche ieri anche lo stesso Quintana è caduto, si è fatto male a un polso, si è tagliato la mano, quindi ha avuto anche lui dei problemi. Certo, il tour deve ancora cominciare, però arriviamo a domenica e la cronosquadra, dove le squadre sono praticamente molto acciaccate, e poi da martedì incomincia tutti gli effetti il tour vero, quello delle montagne, e lì bisogna star bene, cioè non si può arrivarsi acciaccati. Pier, stai lì perché ti faccio sentire il commento di Ivan Basso sulla prima settimana del tour. È stata una settimana molto molto molto difficile sotto tutti i punti di vista, si è visto un agonismo incredibile da parte di tutti i corridori, e questo è normale perché è il tour, è normale perché partendo dall'Olanda, poi scendendo verso il Belgio con vento, strade molto particolari, il pavé ha reso la corsa veramente molto molto molto difficile. Quindi abbiamo affrontato questi primi giorni di tour con veramente l'approccio giusto. Noi come squadra, come Tinkoff, Saxo, siamo riusciti a mantenere un'ottima posizione di classifica, il nostro capitano, e quindi siamo molto contenti, il bilancio per noi è molto molto buono. Abbiamo visto tante cadute, molto nervosismo, che cosa ti aspetti dai prossimi giorni? Ma sicuramente le prossime tappe non bisogna mai abbassare la guardia, perché il tour è una corsa dove c'è un agonismo incredibile, quindi le cadute ovviamente capitano perché ci sono delle tutti vogliono stare davanti, ovviamente, perché c'è il discorso della classifica per i capitani, c'è il discorso della vittoria di tappa, della maglia Poa, della maglia verde, quindi insomma ci sono traguardi importanti dove tutti vogliono ovviamente stare davanti. Quindi mi aspetto giorni difficili, come del resto insomma uno che viene a correre il tour deve prepararsi a questo. Questo è Ivan Basso con il nostro Giorgio De Luca, autore di questa puntata. Per chiudere, Pier, mi confermi che oggi si è partiti senza maglia gialla perché Froome non ha voluto indossare quella lasciata libera da Tony Martin, che si è ritirato? No, non te lo confermo in questi termini, nel senso che oggi la maglia gialla non è in gruppo, Tony Martin si è fratturato la clavicola e quindi non è ripartito, però non è giusto, non è corretto dire che Froome non l'ha voluta vestire, perché per regolamento non può vestirla, Quindi Tony Martin è il primo in classifica, non ha perso, lui ha tagliato il traguardo ieri, quindi in effetti era la maglia gialla in carica, non si è presentato al via questa mattina e quindi la maglia gialla è vacante. Quindi la maglia gialla verrà riassegnata questa sera dopo l'arrivo di una tappa per velocisti, dove ci si augura tutti restino in piedi. Grazie a Pier Augusto Stagi, ciao Pier. Qualche problema con i telefoni. Abbiamo finito. Io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Giovanni Melchiorri in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Lunedì torna Carlo Genta dopo il GR delle 14. Ciao. Grazie di tutti, di tutto, e una buona estate a tutti. Ciao, aiuto.